Una fuga. Non appena Rosa rinvenne, le tornò in mente tutta la conversazione di poco prima con Jasper. Fu come se l'avesse perseguitata fin dentro il suo svenimento e lei non avesse potuto perderne la coscienza neppure per un istante. Che fare? Questo, nella sua paura, non riusciva a saperlo. L'unico pensiero lucido della sua mente era che doveva fuggire da quell'uomo tremendo. Ma dove poteva andare? Dovunque lui non potesse raggiungerla, non era una risposta. Bisognava pensare a un qualche luogo. Decise di andare dal suo tutore e di andarci immediatamente. La sensazione rivelata a Elena la prima notte in cui si era confidata con lei, la sensazione di non essere al sicuro, la sensazione che le solide mura del vecchio convento non potessero difenderla dal suo spettrale inseguimento, la attanagliava al punto che nessun ragionamento riusciva a placare il suo terrore. Il fascino della repulsione l'aveva posseduta così a lungo e ora così oscuramente giungeva all'apice che si sentiva come se lui avesse il potere di legarla con un incantesimo. Anche ora, guardando fuori dalla finestra, mentre si alzava per vestirsi, la vista della meridiana a cui si era appoggiato nel fare la sua dichiarazione la raggelò e la costrinse a ritirarsi, come se lui l'avesse impregnata di una qualche spaventosa qualità della sua natura. Scrisse un messaggio frettoloso alla signorina Twinkleton, riferendo di avere un motivo improvviso per vedere il suo tutore al più presto e di essersi recata da lui, e pregando anche la buona signora di non preoccuparsi perché lei stava bene. Frettolosamente ficcò alcuni oggetti completamente inutili in una piccolissima borsa e lasciò il biglietto ben in vista e uscì, chiudendo piano il cancello dietro di sé. Era la prima volta che si trovava da sola, perfino sul corso di Cloisterham, ma conoscendo bene traverse e curve si diresse in fretta all'angolo da cui partiva l'omnibus che proprio in quel momento si stava mettendo in moto. «Fermatevi, Joe, per favore, fatemi salire, devo andare a Londra». In meno di un minuto stava percorrendo la strada verso la stazione ferroviaria sotto la protezione di Joe. Una volta arrivata, Joe si prese cura di lei. La fece salire nello scompartimento e le porse la piccolissima borsa, come si trattasse di un voluminoso baule che pesava un quintale e che in nessun caso lei doveva sforzarsi di sollevare. «Joe, sulla via del ritorno potete passare dalla signorina Twinkleton per dire che mi avete messa sul treno sana e salva?» «Sarà fatto, signorina. Con tutto il mio affetto, Joe, per favore.» «Sì, signorina, e mica mi dispiacerebbe di avercelo anch'io.» Ma l'ultima parte della frase Joe non la pronunciò, la pensò soltanto. Adesso, che per davvero si trovava a viaggiare velocemente verso Londra, Rosa poteva riprendere con calma i pensieri che la sua stessa fretta aveva lasciato a metà. Ma mentre la sera si faceva sempre più scura e la grande città incombeva sempre più vicina, iniziarono a presentarsi i dubbi usuali in casi del genere. Se dopo tutto il suo non fosse stato un comportamento sventato, e in che modo poteva giudicarlo Grugius? Se l'avrebbe trovato alla fine del viaggio e che cosa avrebbe fatto non trovandolo? E cosa le sarebbe potuto accadere sola com'era in un posto così affollato e sconosciuto? Se non sarebbe stato meglio aspettare e chiedere consiglio a qualcuno? Se, potendo tornare indietro, non sarebbe stata lieta di farlo? Una moltitudine di simili congetture ansiose le si accumulava in mente in un crescendo di agitazione. Infine il treno entrò a Londra, sovrastando i tetti delle case e le strade polverose giù in basso, illuminate da lampioni di cui ancora non c'era bisogno in quella soffocante e luminosa sera d'estate. Signor Hiram Grugius, Staple Inn, Londra. Più di questo Rosa non sapeva della sua destinazione. ma bastò per farla proseguire in una carrozza sferragliante attraverso deserti di strade polverose. Il suo tintinnante mezzo di trasporto si fermò infine davanti a un cancello chiuso a chiave, che sembrava appartenere a qualcuno che era andato a letto molto presto e che aveva una gran paura dei ladri. Rosa, pagato il vetturino, bussò timidamente e fu fatta entrare, piccola borsa e tutto, da un custode. «Vive qui il signor Grugius?» «Sì, signorina, vive qui», disse il custode, indicando verso l'interno. Così Rosa si addentrò e, mentre gli orologi battevano le 10, si trovò sulla soglia di PJT, chiedendosi cosa ne avesse fatto PJT della sua porta di casa. Guidata dalla targa col nome di Grugius, salì al piano di sopra e bussò piano più e più volte. Ma visto che nessuno rispondeva e che la maniglia cedeva al suo tocco, entrò e vide il suo tutore, seduto nel bovindo con la finestra aperta alla luce di una lampada schermata un po' discosta, appoggiata su un tavolo in un angolo. Rosa gli si avvicinò nella luce crepuscolare della stanza, la vide e disse in tono sommesso: «Buon Dio!» Rosa gli gettò le braccia al collo piangendo e lui disse, ricambiando l'abbraccio: «Cosa è successo? Chi ti ha portato qui?» «Nessuno, sono venuta da sola.» «Santi Dio!» esclamò Grugius. «Perché non mi hai scritto di venirti a prendere?» «Non avevo tempo. Ho preso la decisione all'improvviso. Povero, povero Eddie. Ah, povero ragazzo, povero ragazzo. Suo zio mi ha fatto una dichiarazione d'amore. Non riesco a sopportarlo. Mi fa rabbrividire d'orrore e sono venuta qui perché proteggiate me e tutti noi da lui, se volete.» «Certo che voglio», gridò Grugius con un improvviso stupefacente scoppio di energia. «Maledetto!» Dopo questa più che straordinaria esplosione, Grugius, fuori di sé, si bloccò, asciugandosi il viso, e disse: «Ti chiedo scusa, mia cara, ma sarai lieta di sapere che mi sento meglio. Per il momento non dirmi altro. Ti devi rimettere in forza e ritrovare il buon umore. Qual è stato il tuo ultimo pasto?» La tenerezza, piena di rispetto, con cui davanti a lei, un ginocchio poggiato per terra, l'aiutò a levarsi il cappello e a districare i bei capelli, aveva un che di decisamente cavalleresco. Ma chi, conoscendolo solo superficialmente, si sarebbe aspettato di scoprire cavalleria della specie autentica, non di quella spuria, in Grugius? «Bisogna pensare anche a una sistemazione per la notte», continuò. «Avrai la più graziosa stanza del Farnival. Bisogna pensare alla tua toeletta e avrai tutto quello che una capocameriera illimitata, espressione che uso per indicare una capocameriera senza limiti di spesa, possa procurare. Quella è una borsa? Appartiene a te, mia cara? Sì, l'ho portata con me. Non è che sia una borsa molto capiente», disse candidamente Grugius, «anche se ha la dimensione perfetta per contenere le provviste giornaliere di un canarino. Forse hai portato con te un canarino?» Lei rise e scosse la testa. «Se l'avessi portato, l'avremmo messo a suo agio», disse Grugius. Rosa lo ringraziò, dicendo che prendeva solo una tazza di tè. Grugius, dopo essere uscito e rientrato di corsa varie volte per menzionare articoli supplementari, quali marmellata, uova, crescione, pesce sottosale, pancetta brustolita, corse da Farnival di fronte senza cappello per impartire i suoi vari ordini. Poco dopo furono messi in pratica e la tavola fu apparecchiata. «Santi Dio!» esclamò Grugius, poggiandovi sopra la lampada e sedendosi di fronte a Rosa. «Che sensazione nuova per un povero vecchio scapolo puntuto, davvero!» Le piccole sopracciglia espressive di Rosa chiesero cosa volesse dire. «È la sensazione di avere in questo luogo una presenza giovane e dolce, che lo imbianca, lo pittura, lo copre di carta da parati, lo decora con dorature e ne fa una meraviglia», disse Grugius. Le sue parole spinsero Rosa, che l'aveva toccato con la tazza nel porgergliela, a toccarlo anche con la piccola mano. «Grazie, mia cara», disse Grugius. «Parliamo un po'». «Vivete sempre qui, signore?» chiese Rosa. «Sì, mia cara. Sempre da solo?» «Sempre da solo, tranne di giorno, quando mi fa compagnia un signore che di nome fa Buzzard, il mio impiegato». «E ora, mia cara», disse a quel punto, «se non sei troppo stanca per dirmi qualcos'altro su quanto è successo oggi, ma solo se ti senti di farlo, sarei lieto di ascoltarti». Rosa, che aveva ritrovato la calma, gli fece un fedele resoconto del colloquio. Grugius più volte si lisciò la testa durante il racconto e pregò che gli ripetesse le parti che riguardavano Elena e Neville. Quando Rosa ebbe finito, rimase seduto per qualche tempo in silenzio, con un'espressione grave e assorta. «Una narrazione chiara», fu infine l'unico commento, «e spero riposta con chiarezza qua dentro», lisciandosi di nuovo la testa. «Guarda, mia cara», conducendola verso la finestra aperta, «è lì che vivono, quelle finestre buie lassù in cima». «Posso andare da Elena domani?» chiese Rosa. «Su questa domanda vorrei dormirci sopra stanotte», rispose incerto. «Ma lascia che ti accompagni a riposare, perché ne devi avere un gran bisogno». Detto questo, Grugius l'aiutò a rimettersi il cappello e si appese al braccio la piccolissima borsa, inutilizzabile per scopi terreni, e la condusse per mano attraverso Holborn e fin dentro il Farnival. Alla porta dell'albergo l'affidò all'illimitata capocameriera e disse che sarebbe rimasto da basso mentre saliva a vedere la sua stanza nel caso volesse cambiarla o dovesse accorgersi di aver bisogno di qualcosa. La stanza di Rosa era ariosa, pulita, accogliente, quasi allegra. L'illimitata aveva procurato tutto quello che mancava nella piccolissima borsa, vale a dire tutto ciò che le poteva servire. E Rosa scese di nuovo saltellando tutte quelle scale per ringraziare il tutore delle sue attenzioni premurose e amorevoli. «Non c'è di che, mia cara», disse Grugius, infinitamente gratificato. «Sono io che ti ringrazio per la tua incantevole fiducia e per la tua incantevole compagnia. La colazione ti sarà servita in un grazioso salottino adatto alla tua figura, lindo e raccolto. E io verrò da te domani mattina alle 10. Spero che non ti sentirai troppo disorientata in questo posto estraneo». «Oh no, mi sento così al sicuro». «Sì, sta tranquilla. Le scale sono a prova di incendio. E se il vorace elemento facesse la sua comparsa, i guardiani se ne accorgerebbero subito e lo soffocherebbero». «Non intendevo questo», rispose Rosa. «Voglio dire che mi sento così al sicuro da lui. C'è un solido cancello con sbarre di ferro che gli impedisce di entrare. E il Farnival è molto ben sorvegliato e illuminato. E io vivo di rimpetto». Nella sua prodezza di cavaliere errante, pareva convinto che quest'ultima protezione fosse più che sufficiente. Nello stesso spirito, uscendo, disse al portiere: «Nel caso che un ospite dell'albergo desideri comunicare con me durante la notte, una corona sarà pronta per il messaggero». Nello stesso spirito camminò avanti e indietro per quasi un'ora davanti al cancello di ferro, vagamente inquieto, guardando di tanto in tanto tra le sbarre, come se avesse messo una colomba in una gabbia di leoni, dentro una nicchia su in alto, e temesse di vederla cader fuori. Un riconoscimento. Nulla accadde durante la notte a far palpitare la stanca colomba, che si svegliò ristorata. Al mattino, al rintocco delle 10, insieme a Grugius comparve Chris Sparkle, schizzato d'un balzo fuori dal fiume di Cloisterham. La signorina Twinkleton era tanto inquieta spiegò a Rosa. E così è passata da casa col vostro biglietto. Ed era in un tale stato di stupefazione che, per tranquillizzarla, mi sono offerto di venire qui col primo treno del mattino. All'inizio ho pensato che potevate rivolgervi a me, ma ora sono convinto che venendo dal vostro tutore abbiate fatto la cosa migliore. Ci ho pensato a voi, gli disse Rosa, ma la canonica è così vicina a lui. Capisco, è naturale. Ho detto al signor Crisparkle, disse Grugius, tutto quello che hai detto a me ieri sera, mia cara. Indubbiamente gli avrei scritto subito, ma questa sua venuta è più che opportuna. E poi è stato un atto particolarmente gentile, visto che se n'era appena andato. Avete deciso? Chiese Rosa, rivolgendosi ad entrambi. Cosa si deve fare per Elena e suo fratello? Ma, disse Crisparkle, in verità sono molto perplesso. Se perfino il signor Grugius, che vede molto più in là di me ed è in vantaggio di una notte di riflessione, è incerto, figuratevi come mi sento io. A questo punto l'illimitata si affacciò alla porta, dopo aver bussato e aver ottenuto l'autorizzazione a presentarsi, annunciando che un signore desiderava dire una parola a un altro signore di nome Crisparkle, nel caso un signore con quel nome fosse presente. Se non lo era, si scusava per essersi sbagliato. «Quel signore è qui», disse Crisparkle, «ma al momento è impegnato». «È un signore bruno?» intervenne Rosa, avvicinandosi al suo tutore. «No, signorina, castano, direi. Non ha i capelli neri, ne siete sicura?» chiese Rosa, prendendo coraggio. «Sicurissima, capelli castani e occhi azzurri». «Forse», suggerì Grugius con la solita cautela, «sarebbe il caso di vederlo, reverendo signore, se non avete obiezioni. Se uno si trova in difficoltà o si vede perduto, non si sa mai da quale parte possa aprirsi una via d'uscita». «Allora, col permesso della signorina Rosa, potete far entrare il signore», disse Crisparkle. Il signore entrò e si scusò con franchezza, ma anche con molto garbo, visto che Crisparkle era in compagnia, e a Crisparkle si rivolse con un sorriso. «Chi sono io?» «Siete il signore che ho visto pochi minuti fa fumare sotto gli alberi di Staple Inn». «Giusto, è dove io ho visto voi. Chi altri sono?» Crisparkle si concentrò su un bel viso, molto abbronzato. Il fantasma di un ragazzo di un tempo lontano parve confusamente prender forma nella stanza, poco a poco. Il signore vide un ricordo indistinto che andava illuminando il volto del canonico e, sorridendo di nuovo, disse: «Cosa gradite per colazione stamattina? La marmellata d'arancia è finita». «Aspettate un minuto», gridò Crisparkle, «datemi un altro istante». «Tartar!» Si strinsero la mano con grande calore e arrivarono all'incredibile estremo, per gli inglesi, di appoggiarsi vicendevolmente le mani sulle spalle e di guardarsi gioiosamente negli occhi. «La mia vecchia matricola», disse Crisparkle. «Il mio vecchio capo», disse Tartar. «Mi hai salvato quando stavo per annegare», disse Crisparkle. «Dopodiché hai imparato a nuotare, no?» disse Tartar. «Dio santo», disse Crisparkle. «Amen», disse Tartar. E poi cominciarono a stringersi calorosamente la mano. «Immaginate», esclamò Crisparkle con gli occhi luccicanti. «Grugius, Rosa, immaginatevelo, Tartar, il più piccolo degli studentelli che si tuffa per salvare lo studente anziano e mi acchiappa per i capelli, grande e grosso come sono, e nuota vigorosamente verso la riva con me che sembro un gigante marino. E immaginate me, che non lo lascio annegare, anche se sono la sua matricola», disse Tartar. «Ma la verità è che, siccome era il mio protettore e il mio amico e mi ha fatto più bene lui di tutti i professori messi insieme, ho seguito l'impulso irrazionale di tirarlo fuori o di andare a fondo con lui». «Concedetemi l'onore», disse Grugius, avanzando con la mano tesa, «perché lo ritengo un vero onore. Sono fiero di fare la vostra conoscenza, signore. Spero che non vi siate preso un malanno. Spero che non abbiate avuto problemi ingoiando troppa acqua. Come vi siete sentito dopo di allora?» non era affatto evidente che Grugius sapesse ciò che diceva, anche se era del tutto evidente che voleva dire qualcosa di estremamente elogiativo e amichevole. Se solo Dio, pensò Rosa, avesse mandato un tale coraggio, una tale perizia in aiuto della sua povera mamma, con tutto che a quel tempo doveva essere così esile e giovane. Non voglio complimenti, grazie, ma penso di avere un'idea, annunciò Grugius, avendo percorso la stanza al trotto un paio di volte in modo talmente inaspettato e inspiegabile che tutti lo guardarono sbalorditi, in dubbio se stesse soffocando o avesse crampi. Sì, penso di avere un'idea. Ho avuto il piacere, credo, di vedere il nome del signor Tartar come inquilino dell'appartamento d'angolo all'ultimo piano della casa accanto? Sì, signore, rispose Tartar. Quanto a questo avete ragione. Quanto a questo ho ragione, disse Grugius, e noi lo spuntiamo, cosa che fece strusciando il pollice destro sul sinistro. Conoscete per caso il nome del vostro vicino all'ultimo piano al di là del muro? Avvicinandosi tantissimo a Tartar, data la sua miopia, per non perdere una sfumatura dell'espressione del viso. Landless? E noi lo spuntiamo, disse Grugius, ripartendo al trotto e poi tornando indietro. Ma non lo conoscete personalmente, suppongo. Non bene, ma un po' sì. E noi lo spuntiamo, disse Grugius, ripartendo al trotto e tornando indietro di nuovo. Tipo di conoscenza, signore? Mi è sembrato un ragazzo abbastanza malmesso e gli ho chiesto appena uno o due giorni fa il permesso di condividere con lui i miei fiori lassù in cima, vale a dire di estendere il mio giardino fino alle sue finestre. Volete essere così gentili da mettervi a sedere? Disse Grugius. Un'idea ce l'ho. Si sedettero. Tartar con la stessa prontezza degli altri, pur essendo del tutto disorientato, e Grugius, seduto al centro con le mani sulle ginocchia, spiegò la sua idea nel suo solito modo, come se avesse imparato la spiegazione a memoria. Non riesco ancora a decidere se sia prudente, viste le circostanze, che l'esponente più gentile di questa compagnia comunichi direttamente con Neville o Elena. Ho le mie ragioni per credere che un nostro amico di provincia, al quale col permesso del mio reverendo amico mando una fugace ma sentita maledizione, strisci qua e là e si nasconda sopra e sotto. Se non lo fa di persona, potrebbe avere qualche informatore appostato qua intorno, come ad esempio un custode, un portiere o qualche altro tirapiedi di Staple. D'altro canto è naturale che Rosa desideri vedere la sua amica Elena e mi parrebbe importante che almeno Elena, o forse anche suo fratello tramite lei, venisse a sapere privatamente dalle labbra di Rosa cos'è successo e che minacce sono state fatte. Siete d'accordo in generale con queste mie posizioni? Coincidono in tutto e per tutto con le mie, disse Crisparkle, che aveva ascoltato con grande attenzione. E indubbiamente sarebbe lo stesso anche per me, aggiunse Tartar sorridendo, se capissi di cosa stiamo parlando. Un passo alla volta, signore, disse Grugius. Tra breve, se gentilmente lo permettete, vi daremo la nostra completa fiducia. Dunque, se il nostro amico di provincia avesse un informatore da queste parti, è piuttosto ovvio che tale informatore si apposterebbe in modo da sorvegliare l'appartamento di Neville, riferendo al nostro amico di provincia chi va e chi viene. E sarebbe il nostro amico di provincia a dedurre, grazie alle sue precedenti conoscenze, l'identità dei visitatori. Ma nessuno può sorvegliare tutto Staple o preoccuparsi di chi va e chi viene dagli altri appartamenti, tranne che dal mio, naturalmente. Intuisco dove volete arrivare, disse Crisparkle, e approvo incondizionatamente la vostra prudenza. È inutile che ripeta che ancora non so niente del perché e del per come, disse Tartar, ma intuisco anch'io dove volete arrivare, per cui lasciate che vi dica subito che le mie stanze sono a vostra disposizione. «Ecco!» esclamò Grugius, lisciandosi trionfalmente la testa. «Adesso lo sappiamo tutti qual è la mia idea. Lo sai anche tu, mia cara?» «Credo di sì», disse Rosa, arrossendo leggermente, quando Tartar le rivolse un rapido sguardo. «Dunque, tu te ne vai a Staple con i signori Crisparkle e Tartar», disse Grugius, «e io continuo a entrare e uscire da solo, come faccio di solito. Tu sali con questi signori fino all'appartamento di Tartar. Ti affaccia al suo giardino, aspetti che Elena faccia la sua comparsa lassù, oppure le fai sapere che ti trovi lì vicino e comunichi liberamente con lei senza che una spia ne sappia un bel niente. Ho una gran paura di essere cosa, mia cara?» chiese Grugius alla sua esitazione. «Spaventata?» «No, non è questo», disse Rosa timidamente. «Essere di disturbo al signor Tartar. Sembra che prendiamo possesso di casa sua con una tale tranquillità». «E io vi dichiaro», replicò quel signore, «che mi sembrerà mille volte più bella per sempre se la vostra voce risuonerà lì dentro una sola volta». Rosa, non sapendo bene cosa dire a quel punto, abbassò gli occhi e, girandosi verso Grugius, gli chiese diligentemente se doveva mettersi il cappello. Ritenendo Grugius che non potesse fare di meglio, lei si ritirò a quello scopo. Crisparkle colse l'opportunità per fornire a Tartar un riassunto delle traversie di Neville di sua sorella. L'opportunità si protrasse per un bel po', dato che sistemare il cappello richiese una cura maggiore del solito. Tartar diede il braccio a Rosa e Crisparkle li precedette da solo ad una certa distanza. «Povero, povero Eddie», pensò Rosa mentre camminavano. Tartar parlava animatamente, chinandosi verso Rosa e gesticolando con la mano destra. «Non doveva essere così forte o abbronzata quando ha tratto in salvo Crisparkle», pensò Rosa guardandogli fugacemente la mano. «Ma doveva essere molto salda e decisa anche allora». Tartar le disse che era stato un marinaio e aveva fatto il giramondo per anni e anni. «Quando riprenderete il mare?» chiese Rosa. «Mai più». Rosa si chiese cosa avrebbero detto le ragazze vedendola attraversare l'ampia strada al braccio del marinaio, e immaginò che i passanti dovessero trovarla molto piccola e indifesa accanto alla figura robusta che avrebbe potuto sollevarla e portarla lontano da ogni pericolo per miglia e miglia senza fermarsi a riposare. Stava pensando che i suoi penetranti occhi azzurri parevano abituati a scorgere il pericolo in lontananza e a fissarlo senza timore mentre si avvicinava, quando, nell'alzare lo sguardo, scoprì che lui aveva tutta l'aria di pensare qualcosa sui suoi occhi. Questo un po' confuse boccio di Rosa e probabilmente spiega perché mai in seguito riuscì a rendersi ben conto di come fosse salita, aiutata da lui, fino al suo aereo giardino e le fosse parso di entrare in un mondo fantastico che di colpo si era coperto di fiori come il paese in cima al fagiolo magico. Possa quel mondo fiorire per sempre. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.